sai, facciamoci ancora oggi compagnia. Buongiorno tristezza, torniamo dove un giorno ti trovai. E dissi di lei, mi vuole ancora bene, mi sbagliai. Vedendomi con te, buongiorno tristezza, facciamoci ancora oggi compagnia. La strada la sai, è quella che era un dì dell'allegria. Buongiorno tristezza.